Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Un caffè e un cappuccio, grazie. Volevi una briochina? No, ho fatto un pezzo di colazione a casa. Ok, zucchero bianco o di canna? Ma è lo stesso, non so, anzi, di canna, perché è meglio di quello bianco. Buongiorno da Nicoletta Carbone. Avete anche voi un po' di esitazione davanti alla bustina di zucchero oppure avete le idee ben chiare? Il colore fa la differenza, è vero che lo zucchero di canna è meglio di quello bianco? Saluto subito il professor Dario Bressanini, docente di chimica all'Università dell'Insubria, ma soprattutto autore di un libro che io vi consiglio perché è un libro molto chiaro, interessante, Pane e bugie. Professore, eccomi a lei. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Dottore, ho bisogno che lei ci chiarisca un po' le idee tra lo zucchero bianco e lo zucchero grezzo integrale di canna o come si vuole chiamare. A parte il colore, che lo vediamo chiaramente, uno è chiaro, l'altro è scuro, da dove arrivano? Qual è la materia prima? Dunque, allora, lo zucchero è il nome comune per una sostanza chimica che si chiama saccarosio. Questo saccarosio, lo zucchero, si estrae comunemente al mondo da due piante, o dalla barbabietola da zucchero oppure dalla canna da zucchero. Sì. Ok. E la sostanza, cioè lo saccarosio, è esattamente identico. Sì. Poi l'estrazione, i prodotti estratti vanno purificati, perché altrimenti chiaramente nelle piante ci sono altre sostanze oltre al saccarosio. E a seconda di dove ci fermiamo nella purificazione possiamo proseguire fino in fondo e ottenere il saccarosio puro bianco, sia dalla barbabietola sia dal zucchero, dalla canna da zucchero. E quindi abbiamo il cosiddetto zucchero bianco che usiamo nelle case di tutti i giorni, che può provenire sia dalla canna, sì, sia dalla barbabietola. Oppure nel caso della canna da zucchero, siccome ha un aroma particolare che per alcuni è piacevole, ci si può fermare a un stadio di purificazione, non arrivare fino alla fine, diciamo così, e quindi lasciare un pochino, pochissimi residui, si sì, parla dell'1-2%, che danno quel colore ambrato, quell'odore un po' di liquirizia, e i residui sono la melassa. Però di fatto, diciamo, a parte l'aroma e il sapore e il colore, non c'è granché differenza. Diciamo, il saccarosio è saccarosio. Perché questa molecola è estratta esattamente la stessa, sì, identica, sì, uguale. Stessa. Per quanto riguarda invece le calorie... Le calorie sono identiche. Sono esattamente le perché? Stesse. Se uno va a vedere, appunto, specialmente nella bustine del bar, se uno va dietro a leggere, vede che è per il 99,2%, forse è saccarosio, per cui non c'è assolutamente nessuna differenza, nessun vantaggio, diciamo, di tipo dietetico usarlo. Professore, però sul web si legge che lo zucchero grezzo di canna sarebbe ricco di minerali. Questo no, ci spingerebbe a pensare che sarebbe più salutare di quello raffinato. Ma stiamo parlando, mi corregga lei, però, di un prodotto che noi consumiamo a cucchiaini. Eh sì, assolutamente, perché uno ci mette pochissimo. Allora, questi residui di melassa che vengono lasciati nello zucchero per dare questo colore, anzi addirittura a volte in alcuni paesi il cosiddetto zucchero che noi chiamiamo impropriamente di canna, andrebbe chiamato più propriamente zucchero di tipo demerara, sì, ecco, in realtà viene prodotto prendendo lo zucchero bianco e in alcuni casi sporcandolo con una certa percentuale di molasse per dargli il colore. Comunque questi residui effettivamente contengono alcune tracce di minerali, ad esempio il calcio, il ferro, il magnesio, e a volte anche guardando su internet, insomma, vengono queste quantità in tracce, vengono così magnificate, si dice che di sicuro è meglio usare lo zucchero bruno, lo zucchero di canna, che non lo zucchero bianco, perché ad esempio il calcio, lo zucchero purificato non contiene, certo, mentre lo zucchero di canna, lo zucchero grezzo ne contiene ad esempio circa 80 mg. E uno dice, cavoli, 80 mg però... non sono poco. Ecco, però uno va a vedere, insomma, che la dose di... diciamo che di cui uno ha bisogno di calcio al giorno sono circa 1000 mg, sono un grammo, per cui uno per raggiungere queste dosi dovrebbe mangiare più di un chilo di zucchero. Uno si mangia a questo punto 100 grammi di parmigiano e ha già superato la dose di calcio. E così via per il potassio, per il ferro, cioè sono comunque tracce assolutamente insignificanti. Se uno le confronta con le dosi diciamo, di altri cibi che ne contengono in quantità superiore, insomma, il potassio, le banane, il ferro, le lenticchie e così via, vede che... Ci sono altre fonti, insomma, da qui è più facile reperire questi minerali. Ma professore, secondo lei, come mai questo zucchero integrale continua ad avere questa fama di alimento più salutare di quello raffinato? Se c'è un equivoco, perché continua a diffondersi? Ma secondo me ci sono due motivi. Uno è chiaramente che diciamo, dal punto di vista commerciale cioè, costa di più dello zucchero bianco. Paradossalmente costa di meno nella produzione, perché si ferma prima uno stadio di produzione, però viene venduto a un prezzo superiore. Poi secondo me c'è anche un, diciamo, un problema linguistico, perché si dice appunto che lo zucchero bianco è raffinato, il che è corretto dal punto di vista tecnico. In questo caso dal punto di vista chimico la raffinazione significa purificazione, cioè dobbiamo togliere tutte le, diciamo, le impurezze. Si usa lo stesso termine raffinato anche per altri cibi, per cui invece la differenza è sostanziale. Per i cereali, cioè la differenza tra una farina integrale e una farina, diciamo, 00 bianca c'è, e nutrizionalmente ed è rilevante. Quello che invece non c'è è questa differenza nel caso dello zucchero bianco. Quindi c'è anche un po' di... È un problema di linguaggio, sì, secondo me, di questo. Ma professore, prima di salutarci, alla fine di questa nostra breve chiacchierata, noi possiamo dire che lo zucchero integrale sia identico a quello bianco? Ma identico no, perché come dicevo ci sono alcune cose, alcuni aromi, alcuni colori, sì, io per esempio lo uso. Però diciamo dal punto di vista nutrizionale sì, assolutamente, lo dice anche per esempio il nostro INRAN, l'Istituto Nazionale per la Ricerca e l'Alimentazione, e dice appunto in un loro documento che le differenze di colore e sapore dipendono appunto da questi residui, ma non hanno particolari vantaggi nutrizionali. Professore, la ringrazio per essere stato con noi. Adesso non avremo più esitazione davanti alla bustina di zucchero quando andiamo al bar a prendere il caffè. Grazie, grazie, grazie professore, buona giornata. Salve, grazie. Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Mi sono dimenticata di chiedergli quanto zucchero mette nel caffè. Lo chiedo a voi, perché la puntata di oggi mi piacerebbe proprio intitolarla "Quanto è dolce la nostra dieta". Qua in studio con me il dottor Stefano Genovese, responsabile della diabetologia e delle malattie metaboliche al gruppo Multimedica di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 800 24 00 24 se volete intervenire, 349 238 6666 se invece volete, preferite mandarci un messaggio. Oggi cercheremo appunto di capire quanto è dolce la nostra dieta, ma non ci limiteremo a parlare dello zucchero che mettiamo nel caffè, ma di zuccheri. È un'ampia categoria di nutrienti che ha un ruolo importante per la nostra salute e quindi che conviene conoscere per bene. Avete domande? Potete farle ai nostri esperti. Parleremo anche della voglia di dolce, dell'indice glicemico, si cita spesso in molte diete, di glicemia, che è un parametro importante per la nostra salute. E a proposito di zucchero, dottor Genovese, raffinato, integrale, bianco, scuro, il professor Bressanini ci ha spiegato bene un po' che queste differenze in realtà non esistono. Dove va a finire? A questa domanda molti di noi risponderebbero: in ciccia, si ingrassa. Quale libro di diete stai cercando? Non lo so, qualcosa con un titolo del genere "Chi vuol perdere tutti i chili di troppo senza fare un bel niente?" Che ne dici di quello? Ti prego, no. Credevo facessi sul serio. Ed è vero. Non appena avrò finito questo dannato coso al caramello e nocciole. E lei? Sì. Hai scritto che la signora pesa 158,2 libbre invece di 152,8. Scusa. Potrebbe non urlare il mio peso? Scusi. Io ne peso 240. E devo scendere a 180. Tom, ossatura grossa. Miranda, postparto. Dottor Genovese, zucchero, mangio lo zucchero, aggiungo tanto zucchero nel caffè, mangio i dolci, ingrasso. Ma non è solamente un problema di calorie, vero? Beh, Non solo. Intanto iniziamo a dire che un grammo di zuccheri determina 4 calorie. Quindi significa che quando noi prendiamo il caffè e aggiungiamo una bustina di zucchero che contiene in genere 10 grammi di zucchero, stiamo assumendo 40 calorie grosso modo. Quindi non è una quantità eccessiva per la bustina, per la bustina, ma questa quantità può essere eccessiva se ad esempio mangio dei dolci, perché nei dolci sono contenute quantità di zuccheri maggiori. Bisogna fare attenzione perché nei dolci sono contenuti anche i grassi, quindi io ingrasso perché oltre ai dolci, oltre agli zuccheri, assumo anche dei grassi. Che fanno un bel 9 calorie per grammo, molto di più. Noi parliamo di zuccheri semplici e di zuccheri complessi, fanno parte tutta della grande famiglia dei carboidrati, ma una volta che io li introduco, dove vanno a finire? Allora, gli zuccheri arrivano nello stomaco e vengono digeriti. Gli zuccheri semplici vengono assorbiti rapidissimamente. Questa è la caratteristica di questi zuccheri. Per spiegare un po' meglio la differenza tra zuccheri semplici e zuccheri complessi, vorrei usare la metafora della collana di perle. Pensiamo agli zuccheri complessi come a una collana con molte perle. Quindi è una molecola, una sostanza composta da più molecole. Gli zuccheri semplici invece sono due perle. Il saccarosio, ad esempio, è rappresentato da 2 molecole. Quindi appena arriva nello stomaco, questa sostanza viene subito scissa in 2 molecole di zucchero che vengono assorbite rapidissimamente. Viceversa, il carboidrato complesso, quando arriva nello stomaco e poi nell'intestino, deve subire un processo di digestione attraverso delle sostanze che si chiamano enzimi, che proprio tagliano questa collana in tanti piccoli pezzi. Ci mettono più tempo. Esattamente, che possono essere assorbiti più lentamente. Quindi la caratteristica dello zucchero semplice è quello di essere assorbito rapidamente, di far salire la glicemia velocemente. Maccheroni, non fretti, distruggo Senac. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, Maccheroni. Questa è roba da mercare, vedi? Yogurt, la mostarda, o le latte, roba sana, sostanziosa. Maccheroni, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccheroni. Io me ne magno. 2 caffè, per favore. Sì, subito. Oh, che dolce visione, le mie preferite. Non dirlo a me. Sarà così terribile se ce ne dividiamo una. Scusi, potrei avere una di quelle belle ciambelle e un coltello? Ecco a lei. Chiunque sia stato ad inventarle era un vero genio. Abbiamo sentito un breve estratto di Sordi, mitico, eh? È sempre bello. E poi abbiamo ripreso anche un breve estratto di Sex and the City per andare proprio a tavola. Noi sappiamo che i carboidrati sono dei nutrienti molto importanti nella nostra dieta. Quanto devono pesare sulla nostra dieta quotidiana? Allora, la premessa è che i carboidrati, o gli zuccheri, li possiamo chiamare in entrambi i modi, sono uno dei carburanti del nostro organismo. Noi siamo una macchina molto complessa e molto efficiente e abbiamo la possibilità di utilizzare ben 3 carburanti, appunto gli zuccheri, i grassi e le proteine. E una giusta miscela è quella che ci permette di avere una buona salute. I carboidrati rappresentano la quota di carburante principale, infatti le cosiddette diete equilibrate prevedono che almeno metà delle calorie che io devo introdurre nell'arco di una giornata provengano dai carboidrati. È ovvio che in questo caso è preferibile scegliere i cosiddetti carboidrati complessi, che sono contenuti nei cereali, nella pasta, nel riso, farinace, eccetera. Diciamo ridurre il quantitativo dei cosiddetti zuccheri semplici. Quelli che ci danno subito l'energia, ma poi abbiamo visto che producono... Fanno alzare, come dicevo, la glicemia, quindi la quantità di zuccheri nel sangue, in maniera molto rapida e veloce. E questo non ci piace, perché, dottor Genovese? Ma questo non ci piace, soprattutto non piace alle persone che hanno, ad esempio, già diciamo così, per una condizione patologica la glicemia è un po' alta, ad esempio nei pazienti... Ripetiamo i valori, ridiamo questi valori, diamo i numeri insomma. Allora diamo poi i numeri come al solito. I numeri sono i seguenti: la quantità di zuccheri corretta nel sangue, che viene chiamata glicemia, deve mantenersi tra i 60 e i 110 mg decilitro. Sappiamo però che dei valori superiori a 100 indicano già una condizione di rischio, sia per sviluppare il diabete sia per sviluppare problematiche cardiovascolari. Quindi si... meglio bassa che alta. Esatto, è meglio stare al di sotto dei 100 mg decilitro. Se io con la mia dieta faccio sempre alzare la glicemia, e alla lunga è un po' come alla lunga, diciamo così, in qualche modo do degli stimoli al nostro organismo che non sono appropriati, e mentre invece noi sappiamo che è bene mantenere la stabilità di questo parametro. Usiamo una parola un po', diciamo, difficile, questa stabilità si chiama omeostasi glucidica. Francesco ci chiama da Prato, 800 24 00 24. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione. Volevo fare solo una domanda veloce. Sì. Però rifacendomi anche a quello che è stato l'inizio, la conversazione con insomma l'altro specialista. Sì, il professor Bressanini. Si è parlato del fatto che il zucchero, va bene, quello raffinato, il zucchero integrale all'incirca, si può parlare della stessa cosa, ma io volevo chiedere dell'alternativa fruttosio. Sì. Per quanto riguarda appunto un benessere generale a livello fisico, metabolico, oppure la glicemia, come si è detto ora, potrebbe essere un'alternativa valida? Grazie Francesco. Intanto invito i nostri ascoltatori a intervenire, perché oggi proviamo proprio ad aggiustare la dieta, a capire quanti zuccheri ci possiamo permettere, certo, soprattutto quando inserirli nella nostra dieta. Fruttosio potrebbe essere un'alternativa? Lei come diabetologo di zuccheri se ne intende? Allora, il fruttosio, anche qui bisogna dare delle informazioni corrette. Il fruttosio è uno zucchero semplice. Nel mondo, diciamo così, del diabetologico, c'è un luogo comune, che è quello di utilizzare il fruttosio al posto di altri zuccheri semplici per dolcificare le sostanze. Questo in effetti è un errore, perché il fruttosio è uno zucchero semplice, esattamente, sì, quindi viene assorbito molto subito, rapidamente, ma ha una sola, diciamo, peculiarità, che dà un pochino meno calorie di quanto non dia il glucosio, il saccarosio, però questa riduzione è veramente modesta, stiamo parlando di 3,75 calorie contro invece 4. Invece di 4, quindi? È meglio, se una persona è affetta da diabete, utilizzare dei cosiddetti dolcificanti, che sono sostanze che danno il senso del dolce al gusto, ma che non danno calorie, non danno un incremento del valore glicemico. Apriamo una veloce parentesi sui dolcificanti, che sono sempre al centro di molte polemiche, arrivano ricerche, risultati, vengono poi veicolati naturalmente dai media e creano molta apprensione, soprattutto nelle persone, una categoria di pazienti come i diabetici, di che ne fanno uso. Dottore, che cosa dice la ricerca a questo punto? Allora, io su questo argomento voglio tranquillizzare le persone che fanno uso di queste sostanze, in particolare le persone con diabete. Ci sono i due principali dolcificanti utilizzati in genere, sono la saccarina e l'aspartame. Sì. La saccarina ha un retrogusto che può essere più o meno gradevole, e quindi ci sono alcune persone che lo apprezzano e altre che non lo apprezzano, per cui è una questione di gusto. L'aspartame non ha un retrogusto, ha un effetto diciamo dolcificante. L'aspartame viene utilizzato anche molto nella industria alimentare. Ogni tanto escono dei articoli, sì, allarmistici, che dicono che l'aspartame è pericoloso. Allora, i dati dicono che l'aspartame è pericoloso a dosaggi che sono da 200 a 300 volte superiori a quelli che normalmente vengono utilizzati negli esseri umani a dosaggi normali nel modello animale. Sì. Quindi sono delle sostanze che, usate in modo spropositato, possono fare male. però molte sostanze possono fare male se usate in maniera assolutamente spropositata. Ai dosaggi abituali sono sostanze assolutamente sicure. Anche usandole per anni e anni? Anche usandole per anni e anni, perché quello che conta è l'uso quotidiano e poi la sostanza viene utilizzata al momento, poi viene eliminata, metabolizzata. Allora, quanto è dolce la vostra dieta? Come distribuite gli zuccheri? Parliamo di quelli semplici e di quelli complessi. Avete voglia di dolce durante la giornata? Ci sono già ascoltatori che mi scrivono: io non resisto, ho proprio un buco nello stomaco che mi fa mangiare la briochina, la merendina, ho voglia di zucchero. 800 24 00 24, Mercati Meteo e poi di nuovo insieme. Essere e benessere. Un assaggio. Salsiccia. Diretto, un poco di dolce, non me lo prendete? Io. Mamma, non vuoi che dolce avevo direttore? Vi ringrazio, sarei vediamo. Veramente a posto così. Provate, assaggiate. Cos'è? È buono però questo. È buono. Cos'è? Tipo cioccolata? Brava, è una specialità di mia mamma, si chiama sanguinaccio. Quella è cioccolata mischiata al sangue di maiale. Da Benvenuti al Sud, ribenvenuti a Essere Benessere. Oggi parliamo di zuccheri, semplici, complessi, come vanno inseriti nella nostra dieta, che cosa succede. Abbiamo parlato di glicemia insieme al dottor Stefano Genovese e necessariamente parleremo di indice glicemico. Dottor Genovese, molto spesso torna questa cosa nelle diete, alimenti a basso o ad alto indice glicemico. Come va considerato questa cosa? Perché è importante tenerne conto? Se è importante, naturalmente. Certo, per indice glicemico si intende la capacità di un dato alimento di far aumentare la glicemia. Usiamo in riferimento a un parametro standard che è una certa quantità di glucosio. Sì. Sappiamo che gli alimenti non fanno salire la quantità di zucchero nel sangue in maniera diversa. Ad esempio, sappiamo che alimenti ad alto indice glicemico sono, ad esempio, le patate, sono il riso, il riso bianco. E ad esempio il pane bianco, il pane in cassetta, il pan carré bianco, sì, fanno salire la glicemia più di quanto la facciano salire altri alimenti come la pasta, a parità di peso. A parità di peso. Abbiamo tanti ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24, ma io voglio salutare il dottor Maurizio Corradin, medico, esperto di medicina cinese, direttore scientifico di Lefei Resort. Buongiorno dottor Corradin, bentornato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Abbiamo chiesto ai nostri amici da casa di raccontarci quanto è dolce la loro dieta, soprattutto se hanno proprio voglia di dolce. E sono in tanti a dirmi sì, effettivamente non resisto. Prima di affrontare questo aspetto io vorrei parlare con Giovanni da Rovigo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei fare una domanda al dottore. Sì, andiamo. Allora, io non assumo zuccheri tipo quelli bianchi o quelli di canna. Sì, non aggiunge, insomma, non aggiunge zucchero. No, non aggiungo zuccheri al caffè, aggiungo zuccheri da nessuna parte. Però? Però qualche volta, dico la verità, qualche piccolo dolce. Ma certo, Giovanni. Però ho la tendenza della glicemia che si alza, la sto combattendo solo con delle lunghe camminate che purtroppo tanti giorni non posso neanche andare per via del lavoro. Dottor Corradin, se Giovanni, la medicina cinese come leggerebbe il caso di Giovanni? Ebbene, una bella domanda, esige una risposta leggermente articolata. I diversi sapori per la medicina cinese impattano sulle diverse zone del corpo, noi li chiamiamo i diversi organi, determinando, se assunti in piccola quantità, un stimolo propositivo all'organismo; se assunti in quantità eccessiva, oppure se la quantità di sapore in sé, contenuta in sé in un alimento, è troppo forte. Dicevano i classici già nel IV secolo a.C. che arrivano a nuocere alla forma fisica. Più forte è il sapore, maggiore la quantità di una sostanza che prendiamo, maggiormente lede la forma fisica. Quindi noi dicevamo più esattamente lede lo yin. In modo particolare il sapore dolce, che è uno dei sapori più spesso più ricercati, ha questa caratteristica, viene ricercato da questo punto di vista, dal punto di vista, come dicevo, della logica estremo orientale, perché tonifica la milza, cioè tonifica l'energia del corpo, ma addirittura tonifica il sangue, cioè il sangue della medicina cinese sono le nostre emozioni e il nostro io più profondo, per certi aspetti anche più vero. Il punto è che il sapore, come si diceva poco fa, se è molto forte, cioè se è rappresentato dallo zucchero o il dolce, dicevano i classici nel IV secolo avanti Cristo, nuoce alle carni, cioè nuoce alla forma fisica, nuoce alla struttura stessa dell'organismo. Quindi, dottor Corradini, in un certo senso già la medicina cinese aveva dato un'indicazione riguardo all'indice glicemico, no? Lo chiamava in altro modo, ma è questo. Sì, i concetti non sono perfettamente sovrapponibili, ma però quasi. Possiamo dire quasi sovrapponibili, nel senso che si diceva che i sapori leggeri, quelli che noi chiamiamo yang e yang, quelli per capirci che si trovano nelle verdure o nei funghi, pertanto per fare un esempio, sono sapori molto leggeri che non nuociono alla forma fisica. E poi c'erano i sapori moderati, presenti nei cereali integrali. Poi c'erano i sapori molto forti, presenti ad esempio nelle spezie, nelle droghe, le droghe, e poi i sapori proprio tossici, rappresentati in modo particolare dallo zucchero bianco e dei suoi derivati, dall'alcol, dall'eccesso di sale. Questi sono quelli che già nel IV secolo avanti Cristo si diceva che specificatamente nuociono alla forma fisica. Qui, se mi permetti, vorrei solo proprio aprire una piccola parentesi. Certo. Il sapore degli alimenti bisognerebbe recuperare un po' il sapore originario, cioè il sapore del dolce non è quello dei dolci o dello zucchero grezzo o raffinato che sia, ma è quello del cereale integrale. Altrimenti creiamo uno schema di comportamento, spesso preso in età molto giovanile, che sia che venga letto nell'ottica occidentale, sia che venga letto nell'ottica orientale, diventa un meccanismo, un mezzo con cui tendiamo a rispondere nelle situazioni di stress. Quindi molti individui sono stressati, gli viene questa voglia improvvisa di dolce o spesso anche di salato e tendono a rispondere in modo quasi compulsivo, dando una risposta inadeguata a un'esigenza che è ovviamente reale. Quindi torniamo al sapore vero. Adesso noi però dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Maria Teresa in linea da Bergamo e poi Marco dalla provincia di Teramo. Continuate a chiamarci, daremo voce naturalmente alle vostre telefonate, leggeremo anche i vostri messaggi. A tra poco. Essere e benessere. Maria Teresa, buongiorno, ci chiama da Bergamo. Pronto, buongiorno, grazie per avermi chiamato, complimenti per la trasmissione. Grazie. Maria Teresa, lei è dolce, poco dolce? Io sono molto golosa e no, mi vendevo per una caramella già da piccola, così dicevano. E tuttora la situazione è uguale. Non è cambiata di molto. No, oltretutto io sono celiaca. E mi rendo conto di aver bisogno di questi zuccheri, ma proprio anche dopo il pasto io ho bisogno sempre di un piccolo dolcetto. Sì. Cioè più forte di me, cioè. Dottor Genovese. La glicemia per ora va bene, non ho problemi, anzi, cioè non ingrasso per niente. Sono sottopeso parecchio. Ecco, un caso come quello di Maria Teresa, voglia di dolce, se lo mangia, lei è celiaca, deve magari fare una dieta, deve sicuramente fare una dieta particolare, ma se la glicemia è a posto, possiamo fare finta di nulla? Dottor Genovese, poi voglio sentire il dottor Corradin. Ma come sempre, la moderazione, secondo me, è la scelta vincente. Quindi è giusto ogni tanto concedersi anche un dolce, perché no? L'importante è che non si esageri, che non diventi un'abitudine. I parametri da tenere in considerazione, visto che per la signora la signora Maria Teresa la glicemia è a posto, il parametro da tenere in considerazione può essere il peso. Ad esempio, se io eccedo con i dolci posso tendere ad aumentare di peso, ma se io, come diceva l'ascoltatore precedente, faccio un po' di attività fisica, quindi compenso questo eccesso di calorie con un consumo calorico mediante l'attività fisica, non ci vedo niente di male a concedersi ogni tanto un dolcetto. Dottor Corradin? Non posso ovviamente che sottoscrivere, ricordando però una frase, un pezzetto di frase presa dall'ascoltatore un attimo fa. Diceva: è più forte di me. Ecco, è questo che io volevo passare a lei. Questa voglia irrefrenabile. Ecco, esattamente, questi sono quegli schemi di comportamento di cui si accennava. Faccio un esempio, pensiamo agli schemi di comportamento tipo bevo il caffè, fumo la sigaretta. Avvengono, sono una serie di automatismi che avvengono quasi nostro malgrado in un notevole numero di occasioni durante la giornata. Ovviamente non c'è nessun problema nel bere uno, due o tre caffè al giorno, per carità, però se volevo riprendere l'argomento, ci sono delle cose che avvengono e che sono più forti di noi, quindi ovviamente sottoscrivo completamente e per tutto quanto diceva il collega un istante fa, però teniamo presente questo aspetto, ci sono molte volte che con i sapori abbiamo comportamenti che sono più forti di noi, per modificarli, che è possibile, se vogliamo modificarli se nel tempo, perché poi le cose non sempre si evidenziano nell'immediato, ma spesso si evidenziano nel tempo. Quindi se vogliamo modificarli, ricordiamo che sono in relazione, secondo la medicina occidentale, alle nostre aree limbiche, secondo la medicina cinese a quello che chiamiamo i midolli, sono schemi di comportamento che spesso creiamo, che nel tempo possono creare qualche problema. Quindi se potessi ridare un consiglio, ovviamente non c'è nessun problema nel prendere qualche caffè o prendere qualche dolce occasionalmente, ci mancherebbe, sono i piaceri della vita, ma anche ricordarci di riprendere i sapori nella loro natura più originaria, in quei sapori leggeri di cui si diceva prima. Abbiamo Marco che ci chiama dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno, salve, grazie per avermi concesso questo spazio. Marco, si accomodi. Volevo dire la mia, io ho 31 anni, sì? E sono circa 4 anni che praticamente ho eliminato lo zucchero. E come diciamo alternativa, sì? Utilizzo il malto di riso, sì, che praticamente è un dolcificante che viene derivato dalla germogliazione di vari cereali. Sì. Devo dire che mi trovo benissimo, nessun problema. E penso che... Dottor Corradin, Marco ha fatto una sostituzione, ma è questa che fa la differenza o è più un mix di nutrienti nella nostra alimentazione che ci porta ad avere una vita, no? Un benessere globale? Beh, io posso portare la mia esperienza. Nella mia esperienza io ho visto fra le 20 e le 30.000 persone, anche attraverso e grazie ai collaboratori. E posso dire che tutte le volte che ho visto, ad esempio, una differenza di peso durare nel tempo, cioè superare quei 3-5 anni in cui si stabilizza, in cui diventa reale, la modificazione dipende dallo stile di vita che utilizziamo, di cui lo stile di vita alimentare è solo uno di questi. Allora bisognerebbe chiedere al nostro amico al telefono: hai cambiato solo questo nel tuo stile di vita o hai cambiato molte altre caratteristiche? Perché poi si scopre che in realtà ha fatto un po' di più attività fisica, mangiava un po' meno alla sera, sai, uno dei nostri grandi problemi, tutti siamo impegnatissimi durante il giorno e il pasto principale della giornata diventa il pasto serale. C'è un vecchio detto cinese che dice: al mattino mangia come un re, a mezzogiorno mangia come un principe, alla sera mangia come un povero. Oppure una vecchia frase turca che diceva: al mattino mangia ciò che vuoi, a mezzogiorno dividilo con il tuo amico, alla sera lascialo al tuo nemico. Beh, questa mi piace molto. Se questa è magari un po' un'esagerazione, sì, per carità, però cioè, ci fa comprendere che è una modificazione globale dello stile di vita quello che modifica la forma, di cui sicuramente la modificazione dello stile alimentare è sicuramente dei fattori più importanti, certamente. Dottor Genovese, lei spesso visita pazienti che si rivolgono a lei per dire: ho la glicemia un po' ballerina, un po' fuori norma. Allora, possiamo spiegare questa variazione della glicemia come a causa di una dieta troppo ricca di zuccheri e l'alimentazione? Quanto pesa l'alimentazione? E mettendomi un pochino più a stecchetta, facendo attenzione a che cosa porto in tavola, posso far rientrare la glicemia nei valori auspicabili? Intanto anch'io devo complimentarmi col dottor Corradini, perché con le sue due frasi ha dato due messaggi importantissimi. Insomma, vi piacete, io sì. Sono contenta che vi ho fatto incontrare. Benissimo, penso, lo dico proprio con molta tranquillità, io penso che la miscela tra le competenze e le conoscenze della medicina occidentale e della tradizione della medicina cinese, che è più vecchia di quella occidentale, bisogna anche dirlo, potrebbero dare dei frutti ancora maggiori nel futuro. Spero che il dottor Corradini sia d'accordo con me. Certamente. Venendo a noi, la nostra dieta, la nostra glicemia. Intanto quello che diceva il dottor Corradini riguardo alla dieta ricca al mattino è un dato di fatto molto importante. È bene fare un pasto ricco al mattino e anche a mezzogiorno, perché noi abbiamo bisogno di calorie durante l'attività lavorativa. Certo, il carburante. Esatto, abbiamo bisogno del carburante, come dicevo prima, abbiamo bisogno di acquisire del carburante per svolgere le nostre funzioni, che possono essere fisiche ma anche mentali. Pensiamo che il cervello funziona a zucchero prevalentemente. È ovvio che una buona alimentazione può determinare un buono stato di salute. La domanda era: ma l'alterazione della glicemia possono indotte dalla mia cattiva alimentazione? La risposta è sì, ma bisogna dare una risposta anche un pochino più articolata. Ad esempio, anche un eccesso di grassi che determina un incremento di peso può generare una condizione all'interno dell'organismo che viene chiamata insulinoresistenza, cioè l'organismo non risente più adeguatamente dell'efficacia dell'azione dell'insulina, che è l'ormone che ci permette di utilizzare gli zuccheri. Quindi ecco che l'alterazione della glicemia non è data solamente da un eccesso di zuccheri, ma da un'alimentazione non adeguata, per esempio un eccesso di grassi. Poi, se la glicemia cresce a valori che possono diventare diagnostici per diabete, è verosimile ritenere che ci sia anche una predisposizione individuale a questa patologia. Dottor Corradin, salutiamoci con un messaggio per noi, da un qualcosa da seguire. Noi siamo cerchiamo in ogni trasmissione di dire ai nostri amici da casa: introduci questo piccolo cambiamento oggi. A chiusura di questa trasmissione, in cui abbiamo parlato tanto di dolce, che cosa possiamo raccontare e raccomandare ai nostri amici a casa? Era quello che accennavo prima: riprendere un po' il significato originale del termine, ricordarci che dolce non è solo lo zucchero da cucina, che dicevo per la medicina cinese è tossico, che non vuol dire che non si può prendere, certo, ma significa con estrema moderazione, e ricordiamoci del dolce dei cereali integrali, ricordiamoci del dolce, per capirci, per la medicina cinese è dolce il finocchio, è dolce il cetriolo, è dolce il crescione, e dolce. Quindi riscopriamo i sapori. Esattamente. E poi sappiateci dire. Intanto, buona giornata. Grazie al dottor Corradino, al dottor Stefano Genovese. Grazie a voi che ci avete seguito. A domani. Essere e benessere.